Buongiorno. State contenti, state allegro, no? Nonostante le notizie, nonostante tutto? Eh? Non ho capito. Ma io sono un po' triste, perché mi dispiace. Però so che il Signore ha il suo piano e ha il suo... come ha detto Antonio, ha nelle mani ogni cosa, ha nelle sue mani ogni cosa, da quelle cose che ci sembrano così impossibili, così improbabili, a quelle che succedono improvvisamente, il Signore ha ogni cosa nelle sue mani, e questo è quello che alla fine ci dà speranza. Questa mattina vi parlerò della parabola del seminatore. Chi è che l'ha già sentita? Allora ce ne possiamo andare. Ritiriamo l'applauso. E anche io, quando ho pensato a questo fatto qua, della parabola del seminatore, del Signore, ma io stesso ho già predicato su questo fatto, ho sentito tante altre prediche, ho detto, ma che dici tu? E lui ha detto a me, che dici tu? Quella è la mia parola, non sei tu che stai dicendo un fatto per cui, come chiamiamolo, l'hai detto già, stai diventando vecchio. È il Signore che fa e che dice le cose. E quindi io sono andato un po' a rivedere, a ripensare, e credo di aver, almeno per me stesso, e questa è già una cosa, trovato qualcosa di nuovo, di bello, di opportuno da condividere. Sapete, questa è la prima volta che Gesù parla in parabole. Prima di questo aveva fatto il sermone sul monte, e il sermone sul monte è molto chiaro. Da questo momento in poi Gesù inizia a parlare in parabole, e proprio in questa occasione ne dice sette, una in fila all'altra. Alcune le dice a tutti i discepoli, a tutta la folla che sta, alcune le dice nell'intimità della casa, però tutti hanno lo scopo di rivelare quello che è il regno di Dio. E ci sarebbe abbastanza da dire anche solo su questo, però non abbiamo tempo, magari forse lo diciamo un'altra volta. Però andiamo a leggere la parabola del seminatore in Luca, al capitolo 8, al versetto 5. Io devo chiedere scusa ai collaboratori della regia, però stavo qua a dire chiacchiere. È venuta Noemi e dice, papà, ma i versetti li hai dati sopra? Ho detto no, e mi ha fatto un'occhiata che mi ha ferito. Perdonatemi se vi ho messo in difficoltà. E grazie, perché comunque lo possiamo leggere lo stesso. Luca, capitolo 8, versetto 5. Come si riunivano a gran folle, la gente di ogni città correva a lui e gli disse in parabola. Qua stava vicino al mare. Certo, è strano che Gesù vicino al mare parla come a dei contadini, però le persone che stavano lì sapevano di che cosa stava parlando. Il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato dagli uccelli del cielo che lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò perché non aveva umidità. Un'altra cade in mezzo alle spine, e le spine, crescendo insieme con esso, lo soffocarono. Un'altra parte cade in un buon terreno, e quando fu germogliato produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava, chi ha orecchi per udire, oda. I suoi discepoli gli domandarono, che cosa volesse dire questa parabola? Infatti i discepoli erano pescatori, per questo non avevano capito, e hanno detto, Gesù, ma che cosa significa? Poi Gesù era falegname e non sappiamo, però lui sapeva il fatto come andava. Questo è sempre, che Gesù sa sempre come vanno i fatti. Che orecchio per udire oda? I discepoli gli domandarono a che cosa volesse dire questa parabola, ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Qui si parla di qualcosa di molto importante, si parla dei misteri del regno di Dio, è incredibile. Ma gli altri se ne parla in parabole, affinché chiunque crede che stiamo parlando veramente del seme e di come va l'agricoltura sia convinto e rimanga in quella posizione. Ma chi pensa veramente che stiamo parlando dei misteri del regno di Dio, allora chi ha orecchie da udire oda. Questo è tutto quel che è fra parentesi. Questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. I discepoli sono ritornati a casa e gli hanno detto: Gesù, ma che cosa è possibile che tu, davanti a tutta questa gente, davanti a questa chiesa, non avevi niente di meglio da dire, di parlare del seme, del terreno? E noi li sappiamo certe cose, cioè siamo vediamo la televisione, abbiamo internet, li sappiamo già certe cose. Noi dobbiamo capire bene che si sta parlando dei misteri del regno di Dio, e il seme di cui si sta parlando è la parola di Dio, è qualcosa di prezioso. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Andate a leggere i primi capitoli di Genesi e vi renderete conto di quanto importante, preziosa e potente è la parola di Dio. L'Apostolo Paolo l'ha detta in due righe, che mi piace tanto, le voglio condividere. In Romani al capitolo 1, versetto 16: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza del greco e del giudeo, perché in esso è la giustizia di Dio. Come è scritto, il giusto sarà salvato per fede e vivrà per fede. La parola di Dio è qualcosa di prezioso, è qualcosa di estremamente prezioso. E se leggiamo distrattamente questa parabola, sembriamo come che il seminatore è distratto e gli cade il seme che va sulla strada. Non c'è nessuna distrazione. Se tu c'hai 500 euro in tasca, in una banconota sola, lo sai come funziona? Che tu la metti in tasca e poi metti la mano sopra per non perderla. O no? Così è del seminatore. Il seminatore non è che era distratto, dice: ma è il seme, dove cade? Dove va e va? Quello che è il vero protagonista di questa parabola è il terreno. È il terreno quello che è il protagonista di questa parabola, perché è la variabile di tutta questa storia qua. Una volta che noi comprendiamo che la parola di Dio è la potenza di Dio per la salvezza, per la resurrezione, per la consolazione, e allora poi dobbiamo capire il terreno, che è quello che ci interessa di più. Che cosa ha a che fare con noi? È il terreno il vero protagonista della parabola e rappresenta il cuore di chi ascolta la parola di Dio. È scritto proprio chiaramente, Gesù l'ha detto proprio al versetto 15. Il terreno rappresenta chi ascolta la parola. Noi. Senza che andiamo lontano. Noi. E il primo tipo di terreno è quel terreno che cade lungo la strada. Adesso dobbiamo capire che non è che il seminatore stava seminando in mezzo alla strada, stava seminando nel campo da seminare. Però anche nei campi dove si semina, se tu ci cammini e ci ricammini sopra, il terreno si compatta. Se tu passi col trattore sopra il terreno di seminare, il terreno si compatta. E in quel punto il terreno diventa duro, il seme non penetra. E io l'ho chiamato un cuore corazzato. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. E quando il seme della parola di Dio rimane in superficie, rimane sopra, e noi possiamo venire al culto, sentiamo, e poi appena ce ne andiamo ci siamo dimenticati. Oppure stavamo per venire al culto e abbiamo incontrato un amico, e non siamo venuti più al culto. Perché? Perché in fondo noi il fatto già lo sappiamo, cioè la parabola del seminatore, anche qualcuno che non è venuto, mo che se dice la parabola, la so già, come le figurine, ce l'ho già. Quello è un cuore duro, un cuore corazzato. Non dimentichiamo l'importanza del seme. Come si tratta un terreno che è diventato duro? Se tu hai un terreno che è duro e lo vuoi seminare, che cosa fai? Si ara, mo lui del Delight lo sa, e vabbè, si ara, si va ad arare, questa è la scuola, vedi quando uno è andato a scuola, questo è. Si va ad arare. Come si fa ad arare un cuore? Due cose. Uno, la preghiera. La preghiera. La preghiera. Due, l'esempio. Probabilmente le persone che hanno un cuore duro, un cuore corazzato o un cuore insensibile all'Evangelo non stanno neanche qua, forse stanno a casa nostra, sono il nostro marito, la nostra moglie, i nostri figli, i nostri vicini di casa. E come abbiamo provato a parlare, abbiamo provato a dire, abbiamo provato a fare tutto quello che potevamo fare, ma il seme non fa presa. Ci rimangono da fare due cose. Una è pregare. Perché è Dio che convince i cuori, è lo Spirito Santo che convince di peccato. E se noi preghiamo, intercediamo e chiediamo allo Spirito Santo di fare l'opera sua, lui la fa. Due, l'esempio. Forse quando inizi a parlare o quando pensi di parlare, l'altro ti dice, ma il tuo esempio non può fare a meno di vederlo. Il tuo esempio non può fare a meno di ascoltarlo. È il tuo esempio che dà valore a tutte le parole che hai dette. Ieri sera, siamo andati a fare una passeggiata, io e mia moglie stavamo in un negozio e mia moglie stava guardando i vestiti, però mia moglie è bella, guarda ma non compra niente. Cioè è speciale ad andare a fare le cose, è bella assai, brava mamma. Allora, lei stava lì a rivoltare, a guardare, che sembrava che voleva comprare tutto, io mi stavo iniziando a preoccupare. E poi c'erano due bambini in un carrello e il padre dietro, e i due bambini hanno iniziato a litigare. E il padre, che non si alzano le mani! E li ha minacciati con un gesto così. Che cosa pensate che quei bambini hanno pensato? Dice, papà, vatti a trovare un altro carrello e mettiti dentro. È il nostro esempio, è la nostra preghiera, quello che ara un cuore. Non c'è niente di più. Se noi viviamo praticamente, quotidianamente l'Evangelo, questo parlerà. E questo darà valore alle parole che diciamo e questo renderà quel terreno penetrabile, renderà quel cuore sensibile all'Evangelo. Il secondo tipo di terreno, e vedete qui il discorso diventa molto interessante, perché se nel primo caso di un terreno, di un cuore corazzato, di un cuore diciamo insensibile all'Evangelo, noi possiamo pensare, queste persone non stanno in mezzo a noi, le altre categorie di persone stanno proprio qui, siamo noi, perché? Perché sono delle persone che hanno accolto l'Evangelo, che hanno ascoltato l'Evangelo, che gli piace l'Evangelo, ma che non portano frutto lo stesso. Un terreno roccioso, e questo Gesù lo spiega così nel versetto 13. Queste sono le parole di Gesù, e non sono le spiegazioni che sto dando io. Al versetto 13 del capitolo 8, quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola di Dio, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si ritira indietro. E io ho dovuto pensare parecchio su questo fatto qua, perché non c'è un fondamento di, come dire, ipocrisia. Queste persone credono e credono veramente, però c'è uno strato di roccia sotto quello che sembra un buon terreno che non permette di portare frutto. E questo ha a che fare non con un terreno insensibile, ma con un terreno, con un cuore emotivo, con un cuore troppo emotivo. Non so dire un'altra parola. Ora noi dobbiamo capire la chiave di questo punto qua. La svolta del portare frutto non è ascoltare, ma mettere radici. Cioè Gesù lo dice chiaramente. Dice perché? non hanno radice. Quindi tu puoi ascoltare l'Evangelo, ma questo non è sufficiente a portare il frutto se l'Evangelo non mette radici. E sai quando l'Evangelo mette radici? Quando provoca cambiamento, quando le decisioni quotidiane della nostra vita sono prese in funzione dell'Evangelo. I cuori emotivi stanno qui, sono i primi ad alzare le mani, sono i primi a rispondere all'appello, sono i primi a commuoversi, e lo fanno veramente con tutto il cuore. Io non mi permetterei mai di mettere in dubbio la nostra sincerità, anche perché possiamo prenderci in giro l'un l'altro, ma il Signore non lo prendiamo in giro, e di questo siamo coscienti. Ma poi, durante la settimana, le nostre decisioni, le nostre scelte, non sono fatte in funzione di quello che abbiamo ascoltato o della parola di Dio, ma continuiamo a scegliere in funzione di quello che io penso che è giusto, io penso che si debba fare e io penso che si fa così. E l'Evangelo rimane quella nicchia emotiva della domenica, dove la predica, capolavoro, il pastore lo voleva andare a baciare. Però poi non si mette radice. E io lo voglio dire di nuovo, non sto parlando della sincerità del nostro cuore. Io sto parlando di come poi noi riusciamo a implementare, a mettere in pratica quello che ascoltiamo. Le pietre nascoste sotto quello strato di terreno molte volte sono le nostre ferite, molte volte sono le amarezze, le delusioni, le esperienze che abbiamo vissuto nella nostra vita, quello che non ci permette realmente di far penetrare l'Evangelo dentro di noi. Non lo facciamo apposta, siamo sinceri davanti al Signore. Ma poi c'è qualcosa dentro di noi che scatta e che non permette all'Evangelo di scendere in profondità. Ci crediamo. Una chiesa piena di fede dice, ci crediamo, vedi come ci crediamo. Però poi la sostanza, la pratica, il frutto, non riusciamo a portarlo a maturazione. Come aiutiamo questo tipo di persone? Come possiamo farci aiutare se ci riconosciamo in questo tipo di circostanze? La prima cosa da fare è quella di costruire delle relazioni vere. Costruire delle relazioni vere. Fino a quando tu ti tieni dentro e tieni nascosto quello che veramente vive nel tuo cuore, ti dominerà. Ti dominerà, non c'è niente da fare. Costruisci delle relazioni vere, adotta un cuore ferito, un cuore emotivo, lasciati adottare, lasciati affiancare, lasciati aiutare. E la seconda cosa è il perdono. Vedete, la delusione, l'amarezza, la rabbia, tutti quel genere di sentimenti che si nascondono dietro quello che noi vogliamo mostrare, quel terreno buono che vogliamo mostrare, e che poi ritroviamo così duramente nella nostra vita, forse sono il risultato di cose che abbiamo fatto, anzi, no, forse. Certamente sono il risultato di cose che abbiamo fatto o di cose che abbiamo subito. È sicuro che è così. Ma ci sono delle cose che noi dobbiamo tenere presente. Il nostro passato non lo possiamo cambiare. Quello che è successo. Magari vorremmo fare diversamente, magari vorremmo tornare indietro, ma non possiamo. Non siamo nemmeno buddisti che crediamo nella reincarnazione, quindi la chance che avevamo ce la siamo giocata. Però quello che possiamo fare è non permettere a quel passato di condizionare il nostro presente. Questo lo possiamo fare. È l'unica arma che noi abbiamo da poter esercitare è il perdono. Perdona te stesso. Perdona te stesso. Io ho tante cose da perdonarmi e delle quali mi devo ricordare che mi sono perdonato. Forse tu hai persone da perdonare, circostanze da perdonare. Forse tuo padre, forse tua madre, forse il tuo amico, forse il maestro, forse il fidanzato, forse... Perdonalo. Perdona. Non c'hai altra possibilità. Non hai altra possibilità. Perché continuare a ritenere quel senso di giustizia, quell'amarezza, non fa altro che dare nuova forza e rendere ancora più dura quella roccia che non fa penetrare il seme di Dio. Lasciarsi aiutare e perdonare, sapete che cosa fa? Cava via quella pietra. Non è facile togliere una pietra dal terreno. Qualche volta è capitato che anche giocando tu volevi togliere le pietre quando ero piccolo, toglievi le pietre perché dovevi fare il campo da pallone e quella era la moda, si doveva fare il campo da pallone per giocare, allora si andava e si toglievano le pietre e qualche volta tu vedevi una pietra, dici, ma togliamo la pietra e iniziava a scavare e non era una pietra quella, era una montagna che stava sotto, però tu volevi giocare al pallone e prima o poi quella pietra se ne veniva, però sapete che cosa succedeva? Rimaneva un buco. E allora poi dovevi andare a prendere il terreno per riempire quel buco. Lasciarti aiutare e perdonare scaverà un buco, ma la grazia e l'amore di Dio lo riempiranno. La grazia e l'amore di Dio lo riempiranno. E quando hai tolto quella pietra, quel terreno diventa veramente adatto. Il terzo tipo di terreno, quello con le spine, io l'ho identificato con un cuore diviso, un cuore corrotto, però corrotto era una parola, l'ho detta lo stesso, però. Il versetto 14, quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita. Cioè Gesù lo dice proprio. Non lascia spazio a interpretazione, anche perché i discepoli erano, noi invece. Vedete, questo terreno è ottimo, è un terreno veramente speciale. Perché? Perché ha l'humus, ho studiato, ha tutti quei sali minerali da permettere sia al frutto che alle spine di crescere. Quindi è un terreno adatto, è un terreno doc. Però cresce il frutto e crescono le spine. E Gesù dice che quelle spine soffocano il frutto, che non giunge a maturazione. E sono quei cuori che tu... No, da un momento all'altro si battezza, da un momento all'altro si coinvolge nel ministerio, da un momento all'altro fa veramente quella decisione di andare e da un momento all'altro sono passati 30 anni. Questo è il cuore tra le spine. Questo è il cuore tra le spine. Non giunge a maturazione. C'è qualcosa che non funziona. E Gesù lo dice, sono le preoccupazioni, le ricchezze e i piaceri della vita. Le preoccupazioni che chi più ne ha più ne metta. Non vale la pena che noi facciamo a gara per chi è più preoccupato, perché ognuno sa i fatti suoi. Ma quando diventa una difficoltà questo? Quando quella preoccupazione è più importante dell'Evangelo, è più importante di Dio. E quando te ne accorgi quando questo succede? Quando inizi a pensare e a pregare, che noi preghiamo, cioè le preghiere sono micidiali. Signore, se tu risolvi questo problema, allora sì che veramente, vum. Significa che tu stai dicendo, in altre parole, Signore, siccome io ho questa preoccupazione, ho questo problema, non possiamo fare niente. Questo stai dicendo. E quella preoccupazione è diventata più importante del Signore. Ora, sapete, io so che cosa significa essere preoccupato. Io lo so. E lo so che cosa significa essere preoccupati per se stessi e essere preoccupati per i figli. Il che è un gradino leggermente più profondo di preoccupazione. Ve lo posso garantire. Ma non permettere mai che quella preoccupazione diventi prioritaria rispetto alla tua relazione, al tuo ministero, alla tua chiamata, alla parola di Dio. Se la parola di Dio dice che bisogna dare la decima, la tua preoccupazione di non arrivare alla fine del mese non ti fa dare la decima, queste sono spine. Come la vuoi girare? E girala e voltala, ma quelle sono spine. Perché tu o ci credi o non ci credi, tu o lo fai e non lo fai. E quelle spine andranno a soffocare il frutto. Questa è la cosa brutta. E possiamo fare tanti altri esempi. Però questo mi è venuto e questo vi ho fatto. Le ricchezze. Cioè le ricchezze, io non ho mai provato le spine delle ricchezze. Cioè è micidiale questo fatto qua. Però è incredibile come dice pure uno che è ricco, che sta bene, che non ha preoccupazioni, può essere impedito dal mettere in pratica l'Evangelo, la parola di Dio. È assurdo, E vi ricordate quella storia dove Gesù dice che c'era un uomo che proprio dice, io non so dove devo mettere i miei beni. Mo mi apro un altro conto in banca e dico, anima mia, goditi tutto quello che hai da fare. È scritta in Luca, al capitolo 12. Forse qualcuno di noi non ci crede, però può succedere che le ricchezze ti impediscono di realizzare e diventano delle spine. I piaceri della vita. Essere cristiani non significa privarsi di tutto e mettersi le catene sotto alla camicia o mettersi una corona di spine sotto al cappello e andare camminando così. Cioè, perché devo soffrire? Com'è che si chiama? Gli emos, quel che soffrono. Emos quando sono assai. È mondiale, dice. No, io sono soffro perché mi taglio, cioè mi taglio perché soffro. No, tu soffri perché ti tagli, è una cosa incredibile. Essere cristiani non significa questo. Ma quando noi cerchiamo il nostro piacere, la nostra soddisfazione, la nostra autogratificazione al di sopra di ogni altra cosa, diventano spine, perché per servire il Signore c'è un prezzo e quel prezzo va pagato e quel prezzo forse significano delle rinunce, quel prezzo forse significano delle scelte, quel prezzo significa scegliere che cosa fare di fronte a una situazione piuttosto che a un'altra. Quella scelta va fatta. Quelle spine si chiamano peccato. Ora ci sono degli elenchi dettagliati e precisi, volete andare a leggere in Efesini al capitolo 5, in 1 Corinzi al capitolo 6, andate a leggere, lì sta scritto questo non si fa. La Bibbia dice questo non si fa. Andatevelo a leggere se per caso vi siete dimenticati. Però le spine che cosa significa? Significa che noi comunque pensiamo, cioè è vero che non si fa, però, signore, ma tu hai visto in che condizioni sto io? Hai visto quel che mi è successo? Io lo posso fare lo stesso, perché tu sei buono e tu devi capire quello che mi sta succedendo. E possiamo parlare della convivenza, possiamo parlare dei vizi, possiamo parlare dell'aborto, possiamo parlare di tante cose. Che il Signore dice che sono spine o peccato, e noi diciamo, Signore, ma stai scherzando? Cioè, ma se stavi tu al posto mio, lo facevi pure tu. Ma Gesù ha detto qualcosa di leggermente diverso. Matteo, capitolo 5, versetto 30. Se la tua mano ti fa peccare, tagliala. Ma tra quello che io penso che il Signore è buono e mi perdona e mi capisce, e quello che ha detto Gesù, forse c'è una differenza notevole. Però una cosa è quel che dico io, una cosa è quel che dice la parola di Dio. Le spine vanno tolte, altrimenti il frutto non giungerà a maturazione. E se tu ti rendi conto che nella tua vita c'è del frutto che non giunge a maturazione, probabilmente è perché ci sono delle spine, e quelle spine vanno tolte. Quelle spine vanno tolte se vuoi portare frutto. Se no puoi continuare a lamentarti, a dire no, Signore, perché a quello sì, a me no? Forse quello si è tolto le spine. Non nel senso che intendiamo noi, ma nel senso che intende la parola di Dio. Bene, adesso ho ancora 3 minuti e mezzo. Però quello che vi sto per dire è estremamente importante. Quindi, per piacere, statemi ad ascoltare e state attenti. Forse fino a questo momento abbiamo riconosciuto il nostro cuore. È molto più facile che abbiamo riconosciuto il cuore di un altro, però io preferisco che noi guardiamo al nostro cuore. Ora c'è un'attitudine che noi possiamo prendere, di dire, beh, questo è il cuore che ho io. A dire la verità, io quando mi sono confrontato e riconfrontato con questo, ho scoperto che il mio cuore è multitask, come si dice adesso. C'è la parte rocciosa, c'è la parte piena di spine, c'è la parte... Cioè, ci stanno tutti, ci stanno. Ci sta anche quello buono. Però non dobbiamo commettere l'errore di pensare che dobbiamo subire passivamente. Dici, no, questo è il cuore mio, che ci devo fare? Devo andare a fare il trapianto? E noi dobbiamo pensare che Dio ci abbia raccontato questa storia per dirci che abbiamo una possibilità su 4 di riuscire, o che comunque possiamo fallire. Non è questa l'intenzione con la quale Gesù ha raccontato questa parabola, non è questa l'intenzione con la quale noi siamo qui questa mattina. In mezzo a noi, quello che è il cuore migliore, sapete com'è? È ingannevole. È insanabilmente maligno. Il cuore migliore che sta qua in mezzo a noi, qua adesso, è ingannevole e insanabilmente maligno. Questo dice Geremia, capitolo 17, il cuore dell'uomo è ingannevole e insanabilmente maligno. Questo significa che non siamo uno migliore dell'altro, che non abbiamo uno una possibilità migliore dell'altro di riuscire o meno. Questo significa solo che partiamo tutti dallo stesso punto e abbiamo tutti la stessa scelta di offrire la versione migliore di noi per l'Evangelo. Questa è la verità. Il Signore si aspetta che noi gli offriamo la versione migliore. Vedete, se noi riusciamo ad ascoltare la parola di Dio, non è merito nostro, è la grazia di Dio che ci raggiunge, perché noi da soli non riusciremo nemmeno a orientarci dove stiamo. È la grazia di Dio che ci raggiunge. E se tu questa mattina stai riuscendo ad ascoltare la voce di Dio nel tuo cuore, è la grazia di Dio che ti sta raggiungendo. Ora la tua e la mia scelta è quella di offrire a Dio, di offrire a questa parola la versione migliore di te. Quella versione che è disposta a guardare all'esempio dell'altro. Quella versione che è disposta a lasciarsi aiutare e a perdonare. Quella versione che è disposta a togliere le spine, affinché il frutto sia del 100%. Questo merita la parola di Dio, niente di meno. Perché è costata la vita di Gesù sulla croce. E tu e io che siamo qui abbiamo la stessa identica possibilità. L'Evangelo ha bisogno della versione migliore di te. La tua famiglia ha bisogno della versione migliore di te, come marito, come padre. La Chiesa ha bisogno della versione migliore di te, come servo, come membro, come ministro. È quello che è nelle nostre mani, è quello di offrire. Noi ce l'abbiamo, tu ce l'hai. Tu hai la possibilità di dire questa mattina: io voglio portare frutto e farò tutto quello che il Signore mi chiede di fare per farlo. È la grazia di Dio che, unita alla tua decisione, fa la differenza. E questo è per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno. Vogliamo pregare assieme? Vorrete alzarvi in piedi per piacere? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché per me è stato un grande incoraggiamento capire che è la tua grazia quella che rende possibile per me ascoltare la tua parola e scoprire che io ho la possibilità di offrirti un buon terreno, perché è dentro di me, così come è dentro di me la roccia, le spine e la durezza, ma c'è anche il buon terreno, Signore. Io quello voglio offrirti. Noi quello vogliamo offrirti, Signore, affinché la tua parola porti nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, il frutto per la quale tu l'hai mandata. E noi possiamo essere benedetti e di benedizione per la gloria del tuo nome, Signore Gesù, e perché venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Ti benediciamo, Signore, benediciamo la tua parola nel nostro cuore. Amen. Amen.